10. Allo? CQ 10. Bueno. Ciao Luca, buonasera. Già. Ciao Marco. Sì, abbiamo parlato assieme con Gianni, non mi ha sentito. Ciao Marco, buonasera. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Risolto? Sì, sono andato alla fine, sono andato alle poste, praticamente la postpay era a posto, anche attraverso il call center, sia con Iliad che con gli altri operatori non riuscivo praticamente a effettuare il pagamento. Allora, niente, sono andato al tabacchino, al corso, e ho preso la scheda Chiena Mobile. Diga. Ciao Lu, beh, a casa, dal segnale sei a casa tua. A te Marco, Marco, a te. Buona merenda. Sì, stavo pensando, Gianni, la scheda delle poste è come avere un conto oppure no? Perché per prendere Iliad io avevo dovuto addirittura far pagare mia zia dal suo conto, cioè da un vero conto corrente bancario, magari quello delle poste è differente, capito? È strano che sia ricorso a lei, vuol dire che non mi permetteva di pagare con la mia prepagata, capito? No Marco, cioè io avevo fatto due attivazioni usando la PostePay, è una regolare carta di credito del circuito Mastercard Visa, quindi non capisco, ci sono praticamente i server o i siti di questa gente qua che sono in tilt, oppure perché poi per il resto è tutto a posto, cioè non, verificandolo tramite internet nel mio account delle poste, cioè mi fa vedere tutta la lista di movimenti, tutte le varie ricariche, trick e track e ballacche, capito? Cioè quindi è tutto regolare, tutto a posto. Non lo so, ho evidentemente cambiato qualcosa negli ultimi tempi, ma negli ultimissimi. Cioè, poi ho chiamato, te l'ho detto, due o tre volte il come si dice? Quelli di Iliad e mi hanno detto insomma che probabilmente poteva essere un sovraccarico del sito per via della promozione che magari in molti stavano facendo richiedendo quell'offerta, capito? E niente, insomma, adesso io mi sono rotto le balle, ho fatto la cosa online e sono andato al tabacchino poco fa a prendermi la scheda, boh, finito il gioco. Ehi, meglio così, dai. Sì, sono certe volte non si capisce quale sia il meccanismo di questi circuiti di pagamento, ma bene, anch'io avevo visto un routerino bello una volta, ma piccolo mio, una cosa tascabile, addirittura andava a batterie ricaricabili e quindi era anche per cose installazioni temporanee, improvvisate, capito? Però non ho preso marca modello, ormai sono passati anni, ne avranno fatti di modelli anche migliori. Avanti Gianni, doppio room. Buonasera a tutti. Un controllo di radio che stavo facendo un microfono un sacco. Vai Gianni, un passaggio lungo. È 1, 2, 3, prova. Questo qui è un microfono amplificato con la base dell'MSC. Allora già, non è molto espansa, è un po' come muffled, frenata mi sembra come modulazione. Gianni? Molto nasina. Molto nasina. Oh, ciao Claudio, dopo tanto. Muffled vuol dire come quello che hai detto tu praticamente. Non espansa, non... vabbè, l'hai detto bene tu Claudio, vai. Chiusa? No, nasina già, chiusa no, nasina. Buonasera a tutti, sono di passaggio. Ciao Claudio, ciao. Ma che capa? Eia. Nasina già, non tanto chiusa, la modulazione c'è, ma è nasina. Segnale come Claudio? 9,25, però tenete conto che l'antenna è a 2 metri d'altezza, è in terra. Adesso, vabbè, Franco lo voleva provare, non è più importante. Non è male già, ti posso dire che non è male, però è nasina. Sì, e poi come amplificazione non è poi così tanta. Il profeta è in confronto più forte di radio. Ciao Ciao Claudio, buonasera. Ben rientrato. Eh sì, è molto effetto barattolo già. Ciao già, buonasera, ben ascoltato. Sono di passaggio, sono ben affalato in questo periodo. Poi ci sentiremo con calma appena ho terminato tutto, dai. Allora, se sei là, qua alla nuova destinazione, qua il segnale è ottimo, è 9 più 25, è una radio 5. 5 watt, l'antenna ti ho detto in terra, ancora non è messa al suo posto. Conta che Monte Oro ce l'ho praticamente davanti, infatti Gianfranco arriva forte anche con un watt, quando lui dice di mettere 100 milliwatt, lui arriva sparato lo stesso, perché Monte Oro è di fronte. E figuratevi voi che vi vedo tutti. Ho recuperato la zona del mare, vedo la punta di Castelsardo, prima non la vedevo. E quindi è buono, dai, è in alto, non è infossato. Buono, buono, buono così, dai. Ehi, infatti io non ti sentivo per tanti giorni, io sto entrando poco e niente, Claudio, perché veramente ho perso un po' la passione. Stasera ho provato le stazionarie, ho dato due fischi a vedere se l'antenna c'era ancora, e c'è ancora. E poi ho sentito Gianni che ha chiamato, c'è anche Luca che sta facendo merenda, eccetera, poi è entrato doppio room, eccetera, eccetera. Doppio room li prendi, forse stanno saldando, regolando qualcosa. Eia, va bene. Io invece sto tarando, ho cambiato l'inchiostro della stampante già. Devo fare, non ce ne sarebbe bisogno, io per scrupolo gli faccio l'allineamento delle testine, sia per il colore quando cambio la cartuccia, sia per il bianco-nero, in modo che non ci siano distorsioni di sorta. Ciao Marco! Chi è, Franco? K, meglio un po' adesso se va meglio la radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, sembrerebbe un po' più squillante, però nasina, cioè l'effetto nasino rimane. Tu hai la modulazione forse un po' più alta di tono ed è un po' più squillante di Gianni. Sicuramente la capsula che non serve, allora dai, devo cambiare la capsula, riprendete. Ciao Claudio, ciao anche agli altri. Ciao Fra, no, non mi biasi. Era meglio quella di Gianni, la modulazione, la tua è ancora più nasina, perché gridi. Basta questo microfono, adesso sto facendo le regolazioni. Secondo me è la capsula che non serve qua. Ah, non penso, Fra, perché la capsula spinge, però la sento nasina io. Come spinta potrebbe anche andare, vedi un po'. No, ecco, io non ho perso la voglia, non c'ho tempo, sono incasinato, perso, sono ancora a metà strada, tu immaginati, abbiamo solo svuotato i mobili e basta. E ho carbonato pieno di scatole, di roba tutta in mezzo alle balle. Ancora deve venire l'impresa a smontare tutti i mobili e ripiazzarli nell'altra. Quindi immaginati tu che condizioni sono. Guarda, io ne ho fatto solo uno di trasloco, da Viale Mameli a Via Nizza, nel 92, ti dico è stato scioccante. E avevamo pochissima roba, Mi ricordo che quello del motocarro era sgomento, dice, ma quanta roba avete? E non avevamo nulla. Adesso abbiamo 10 volte tanto, soprattutto oggettisti, cani, cavolate, lo sai che noi abbiamo la mania tra me e mamma di comprare cose che poi non usi, giusto per avere l'oggetto, no? Dice, potrebbe tornare utile. Ma è stato scioccante, per carità di Dio, mai più. Eia, poi vabbè, non sto entrando anche perché poi ci sono casini sul fronte della salute in arrivo, analisi da fare, forse anche radioterapia da fare, lasciamo perdere. Gianni, riprendi. Eia, cosa volevo dire? Allora, sto facendo la storia della... sto attivando il numero di telefono, quindi sono un amittimino al computer e se faccio casini faccio danno, dai. Mi assento un attimino, casomai ci aggiorniamo dopo. Ok, dai. A più tardi. E io già. Dai, io continuo Io continuo con la stampante, ho quasi ultimato, in modo che sia bello a puntino. Saluto anche Claudio, California, doppio room, se c'è, tanto è lì all'ascolto, stanno sicuramente regolando il suo microfono, cambiando capsula. Ciao Claudio, mi ha fatto piacere sentirti dopo tanto, e anch'io stacco, dai, poi ci sentiremo quando sarai, quando avrai fatto tutto, che ti devi anche un po' riposare mi dal coso, dal trasloco, che è una rottura immensa di yo-yo. Ok, riprendi Claudio. Aspetta un attimo, così come sto andando? Mamma mia, già ancora peggio. Aspetta, già, fai parlare, parla tu in un passaggio, sia tu che Franco, perché sembra come soffocata, mi è come ovattata la radio. Muffled. Questo qui è il Turner, mi non è quel microfono lì. Ma già, è barattosa, è diventata barattosa, cosa avete combinato? Se non lo sai tu già, e noi ti possiamo dare solo un controllo, però da ieri a oggi c'è un abisso, cioè è diventata barattolosa, bruttissima come radio. Ieri era bella corposa. Prova adesso che ho passato. No, è barattolosa già, è barattolosa, non mi piace, è barattolosa, non so neanche come definirtela, guabu, non lo so. Oh Gianni, ma non è che hai la voce afona in questo periodo? No, c'è un normale. Oh, era una schioppettata, le ha fatto anche i complimenti, bellissima, bella corposa, amplificata. Oggi è strozzata, barattolosa, cupa, cioè, già, cosa ti devo dire? Ma avete cambiato la capsula per caso? Gianni, avete cambiato la capsula? Ma stai scherzando, non ho toccato niente. E come mai è diventata così? Avete toccato la radio, lo state usando sopra un'altra radio allora? Sul Galaxy. Sul Galaxy, anch'io sto usando il Galaxy già, il coltane più 3, ma non penso che ieri era bellissima la tua ondulazione. Prova a far parlare Franco già, vedere se la voce se migliora con la voce sua, che ha un tono un po' più alto. È strano Marco, una modulazione strana, ieri era bellissima, l'ho sentito a Gianni ieri, non so cosa sia successo, anch'io sto usando il Turner, basso però, sto usando il Turner, vabbè non ne ho voglia, sono stanco molto. No Marco, io non ho mai trasloccato, quando mi sono spostato via Pascoli io non ho portato niente. Quindi questo è il primo per me, svuotare gli armadi e svuotare tutto è un casino veramente, credimi. Vabbè, ne uscirò dai piano piano, senza contare poi c'ho ancora da sistemare su le antenne, mansarda, c'è un camion di tubi da portare via, ci sono mobili anche lì, qua un casino, vabbè dai. Piano piano ne usciremo, dai, non ti trattengo. Gianni, se vuoi altri controlli sono qua. Sono di passaggio, mi sono seduto un attimino perché sono stanco molto. Cappa. Allora io stacco un po', riprendo a fare quello che stavo facendo. Io ieri non l'ho sentita e non lo so. Pare essere un Turner, non sembra un Turner. Non so se sia il più 2, il più 3, io poi non mi intendo di queste timbriche. Cioè magari ti metti uno ZG e mi sembra uguale a me, capito? Non ho l'orecchio molto allenato per la microfonia. Ok, saluto di nuovo tutti e ci sentiamo fra qualche giorno, qualche mese, qualche anno. Okay, ciao, ciao, ciao. Non ti assicuro anch'io, quando ci sentiamo, comunque se sono di passaggio la radio già è qua, l'accendo. Anche se ancora in condizioni precarie, però già ci sentiamo. No, è un Turner più 3 come questo. Questo è un più 3B, quello dovrebbe essere un Super Sidic, ma le capo sono uguali, la resistenza è uguale, quindi dovrebbe avere la stessa timbrica che io ieri l'ho sentito, ti ripeto, era bellissima, molto bella, amplificata, bella corposa, con la tonalità medio alta, medio bassa. Oggi è un po' diversa, non so, vabbè. Sono qua Gianni, se hai bisogno di qualche controllo, dai, a dopo, ciao Marco Ricchi, ciao anche a Gianni Rubroffetta. Sì, ciao a tutti, anche a Luca che era in posa merenda, ciao ciao a tutti, ciao. E anche al Gariello, dai, già sono qua, io comunque sono di passaggio, ripeto, sto facendo cosa, quindi già sono qua, la radio la tengo accesa, dai, a dopo. Sì, sono qua, Lugari, anch'io sono qua. Hai visto, ragione avevo ieri, ah? Ti è piaciuta? Avevo giumento. Vabbè, ci vince anche così, credendoci, grande partita veramente. Grande partita, veramente molto molto bella, una partita veramente da rivedere, hanno giocato tutte e due alla grande, l'Atalanta meritava il pareggio però non ce l'ha fatta perché era bugato, ma di tutto e di più il portiere dell'Inter, però ha vinto. vinto l'Inter, va bene così. Va bene, Ugaria, dai, io sono qua. Vabbè, dai, diciamo che quest'anno devi vedere l'Inter, lo scudetto, no? Beh, io penso di sì, tenendo conto che a 6 punti è lungo il campionato, da giugno, già lo sai, la palla è tonda, se non molla non ce la dovrebbe fare, è a 6 punti dal Milan, a 10 dalla Juve, però la Juve va a recuperare una partita la prossima settimana, vincendo va a 7 punti a 6 punti dal Milan, 7 dalla Juve. Deve tenere quel passo, se molla è fregata, perché ce li ha tutte e due le calcagne, quindi deve giocare e raggiungere almeno questo obiettivo, perché l'unico obiettivo che ha l'Inter quest'anno è lo scudetto, per il resto ha mollato, purtroppo. Vabbè, speriamo bene, io prefiro più l'Inter, meno Milan, i milanisti mi stanno sui coglioni. Beh, certo, ci dà dietro sì, poco, ma ci sono. Vabbè. Ma tutti dicono, diciamo, l'80% delle persone dicono che quest'anno sta andando forte l'Inter. Sarà importata bene la squadra, no? Va bene. Pure. Allora ti dico, a me non vedo Canuta, vinca il migliore, sarebbe gli allucci. Ma non tocca Canuta, la manca all'Inter, capito? Vince il campionato e va bene così. È andata bene quest'anno, vuol dire che se l'ha giocata, ma la partenza è stata abbastanza alla grande. Purtroppo i soldi che ci sono in palio sono della Champions, capito? Sono tantissimi. Peccato che è stata eliminata, perché per le squadre che ci sono quest'anno poteva fare anche il risultato in Champions, le coppe. La Juve potrebbe, la Coppa delle Coppe l'ha già vinta, potrebbe vincere la Coppa Italia, perché c'è la finale con l'Atalanta, e potrebbe qualificarsi in Champions. Se vince oggi va ai quarti di finale, quindi è già quasi alla fine, e lì ci sono soldi in palio. Quindi due obiettivi, magari Coppa delle Coppe, Coppa Italia, non dico la Champions, campionato non lo so, deve mantenere questo ritmo, perché non sta perdendo, sta vincendo, quindi, però se vincono anche gli altri è un casino, i problemi sono quelli, vabbè, si rabbigliano in culo, no, io oggi me la guardo, cioè io vedo Sport, Canale 5, o dentro o fuori, si vedrà stasera, va bene, dai, mi ascolti bene Lucy? Ma che te ne sentivo bene, boh Gianni ci sei? Non sentivi questa modulazione strana di Gianni? Ah vabbè, se non lo sentivo bene poco fa, boh, non lo so, Franco non usciva bene, Franco no, Gianni sì, boh, ci dato la porta, cazzo la presenza, perfetta, va bene, non è squillante, va bene, se tu esci prepotente, va più che bene, guarda. No, ce l'ho basso, a parte fatto lui che sono in una posizione dove proprio gioco in Tanado, mi l'ho appoggiata lì perché a 2.20 ho messo il Galaxy di nuovo, perché non c'è posto di niente qua, devo farmi la postazione, devo tirare sull'antenna, devo fare un sacco di cose, però sono incasinato un bacio, speriamo che domani non piova, che mi dia un po' di tregua, perché ho roba anche da mettere fuori, scatole, scatolette, è un casino. Infatti mi sono bloccato adesso, basta, mi sono andato stamattina alle 7, caricando, scaricando, riempendo, svuotando, facendo, basta, ui. Sono anche troppo in anticipo, piano piano, che se no mi viene a vero esaurimento. Ascolta, le cose si fanno piano piano, altrimenti poi è un casino, esci di gabbo, ti vai nella partenza, si può dirissimo, mamma mia, guarda. Quando le cose non vanno nel modo giusto, veramente esci di gabbo, mi nervosisco e qua, diciamo per me. Allora, un amico, gli ho sistemato un telefono, cazzo, mi ha già ricaricato via 3 volte, questa è la terza volta, praticamente avevo un problema, infatti io sto operando la pazienza, ho smontato, ho fatto, roba a caricarlo, se schiacciavi, comprimevi dietro, ci fosse di quei telefoni di ultima generazione, no? Quelli che vanno, che scavi il coperchio e c'è l'adesivo, poi si stacca, no? E quelli lì. Cioè, praticamente comprimi nel coso, del flat, della, come si chiama, del... dove tu carichi il telefono e funzionava, lo mollavi, dopo non caricava più. Allora stamattina tutto lo mangiare non è il telefono, tre volte me l'ha portato, cioè un buccio è andato al telefono che ormai ci perdi le speranze. Comunque vabbè, sono riuscito a sistemare, gli ho detto guarda, non me lo portare più, cazzacchino, gli sta in chivia, a parte che è uno spreco di colla, quella colla costa a me, quella colla per incollare i coperchi, gli ho detto non portarmelo più. Mamma mia, che rottura di balle, quando è così è un casino. Beh, vabbè. Va bene. No, lui si è perduto la pazienza, guarda, oggi sono un po' incazzato perché mi dovevano portare un po' di scatole. E invece non me le hanno portate. E quindi mi sono bloccato perché ne ho 5-6 solo. Poi vabbè, tutti i sacchi, le cose, però... Cioè sono a buon punto, dai, però sono stanco, sono 10 giorni che sto andando con un ritmo abbastanza grosso. Cazzo, ho tue balle, vabbè dai, piano piano. Beh, è normale, se fai tutto in un botto non va bene, piano piano qua. Perciò abbiamo mal di schiena, ora di meno, però ce l'ho, non mi siedo. Infatti mi ho scosso il cazzo, non mi muovo, porca paletta, devo andare dal medico, non c'ho tempo, perché poi magari arriva quello, mi chiede un favore, adesso devo sistemare un telefono di questa ragazza che gli avevano fatto cadere, devi essere per scuola, e mi arriva l'11 il display, ed è una cosa urgente, e lì sono un lavoro delicato, non delicato di più, sto già aperto, sempre con la solita manovra, a scaldare, piano piano, adesso devo smontare tutti i pezzi, una parte l'ho già smontata, adesso devo smontare la batteria che è un casino, perché c'è l'adesivo, siccome sono le batterie a litio si piegano, no? E poi tutto il resto dei pezzi. È tipo quel lavoro che avevi fatto alla radio di Laria. Alla radio? Lui al telefono di Laria, grazie alla radio, tra l'altro sono confuso. No, sento splatter. Senti splatter? C'era Franco con Gianni che stanno provando un altro canale. Non ci sono nei canali, sentivo di sblatter, non lo so cosa stanno facendo. Ah, io già non intendo nulla. Non sento. Da 35 sono io. C'è il bilaburetto di colpi, tranquillo. E il bilaburetto. Non sono più che sicuro. Poi se attacco il modificato ancora di più. Ah beh, sicuramente. Adesso perché è partito lunedì il 430, non so se arriva domani o di martedì, mercoledì, cazzo c'è l'indirizzo del carbonazzi, mi tocca stare in chivi tutta la sera. Che palle che è. Ci arriverà, cla. Quando doveva arrivare oggi? No, dovrebbe arrivare domani, se è partito lunedì mattina arriva domani pomeriggio, se è partito lunedì sera dovrebbe arrivare giovedì mattina, ma mi tocca stare sali e scendi, capito? Perché il corriere dovrebbe essere la GLS, già c'hanno il mio numero di telefono. Però l'indirizzo è via La Malfa, capito? Io sono sempre giù in campagna adesso. Ma vabbè, già arriva. Non ce l'hanno tu per chiamarti nel caso? Sì che ce l'hanno, certo, mi chiameranno. E allora fottiti. Perché poi adesso appena ho finito tutto devo fare anche il cambio di domicilio, quindi la posta arriva tutta da un'altra parte, perciò... Sì, claro, ragazzi, comunque non c'è un giramento di palle, queste qua sono un giramento di palle. Ma dovevo farlo, lo farò già da qualche anno, però non riuscivo a vendere, adesso ho venduto, chiaramente devo farlo, piano piano, farò il cambio di domicilio, la residenza rimane sempre Sassari, faccio il cambio di domicilio, faccio la notazione nella patente, nei documenti, è tutto un casino, bisogna fare tutto, se no è un casino. Sì, io penso proprio di sì. Un giramento di pibilisti. Allora devono cambiare la patente, anche i documenti. No, ci fa un... ti fanno un foglio. Ti fanno un foglio sino a quando non scade la patente, poi ti cambiano l'indirizzo, capito? Ti fanno un foglio che devi tenere sempre appresso e quando ti fermano devi consegnare quello anche legato alla patente. Ho capito. Aggiugavite. Vabbè, dai, ha fatto un vatro, ma come ben si più, dai, si butta qui. Per forza, ormai è quella la decisione, non posso tornare indietro. Ma non tornerei manco a pagare indietro, perché ahorita non volevo andare, ma di finire. Mi chiamai già Udo. La lettera, la cassetta postale, appunto dell'aumento del condominio, dei lavori di ripristino, piano piloti, poggioli e balle varie. E forziani, già a Giulia venduto due, me la futta scema. Ma l'ho già comprato? Sì, gli ho fatto il compromesso. Dato lo facciamo il 20 di aprile, mi sembra, il 18 di aprile. Vabbè. Si sta bene anche in campagna, almeno puoi fare tante cose lì. C'è più fresco d'estate, vero qua? Me la dici? Scusate, ci sarà più freddo d'inverno e anche. Ehi, inverno sì, inverno c'è freddo, ma c'è il caminetto dentro, c'è la stufa a pelle, c'è tutto, non c'è nessun problema. Già va bene. È che anche lì c'è un sacco di cose da fare, cazzo, minchia, c'è l'erba alta un metro, adesso appena termina di piovere, prima giornata di sole che fa, ci mettiamo con mio genero, taglia tutto, sennò tocca far entrare i beguri. Centrali di beguri fanno una strage. Prima infatti, avanti Becco. Ciao Nicola, buonasera, ben ascoltato, salutoni, non so se mi ascolti perché sono in condizioni precarie, dove sei? A Chiaramonti? Sono in condizioni precarie, Nicola, perché sto traslocando, c'ho l'antenna bassa, non sono al solito posto, capito, c'ho l'antenna bassa, comunque ti ascolto, dai, non c'è problema. Lo senti Lugarie a Rosso da Chiaramonti? No. Non ti accoppia. Nico, te l'ho detto, sono in trasferimento, ma questa zona non è che da invidiare con l'altra, attenzione, l'antenna è appoggiata dentro un secchio di cemento armato con un tubo a circa 2 metri e mezzo da terra, non di più, quindi è con un tirante che tiene a un paletto, quindi poi quando la metto sopra dove deve andare mi ascolterei ancora meglio, non c'è problema. Piano piano, dai, ne uscirò. E gli ho sentito l'altro giorno con Roberto, che a vendere un dogo, ha detto di ventalura a trovare il controllo. E io sono pronto a dargli anche lo scettro, non ce n'è problema. Ma mi sembra che le venga un po' in salita, per la posizione in cui sono, mi sembra che le venga un po' in salita. Comunque, va bene. Tieni conto che io sto usando neanche 10 watt, 8 watt, quindi già va bene, l'antenna in terra, poi vediamo come va, dai, riprendi Lucarie. Se non arriva proprio, non so se mi ascolta anche lui, dov'è Chiaramonti? La strada quella che va a Tempio, Chiaramonti. Ah, è vero, Chiaramonti, sì, no, non ci arrivo lì, perlomeno, non so se mi ascolta lui, qua lui non arriva. Dove sei, Rosso? Ho capito. È nella lì Martis, Chiaramonti, quelle zone lì sotto, nelle curve, capito? È per quello che non ti sente lui, sennò se si mette lì nella piana di Proghi già ti sente. Ehi, quando inizi a salire già lo senti, adesso perché sei nella zona bassa, dai. Non c'è problema, io già ti vedo. Cioè, usilo davanti, ma già lo supero questa volta, usilo, la massa nelle varie. Fai, già siamo qua, KK, va bene. Capito lui. Adesso poi vediamo, se arriva domani o dopodomani, devo anche provare quella radio, se va bene, perché il tecnico mi ha detto appena ti arriva, provala, fammi sapere se tutto è a posto. Perché me la sta mandando in garanzia, quindi. Capito. E niente, mano a giù tempo, manco di bisciacchia. Ma sarà andando a Sassari questo qua. Cosa? Sta andando a Sassari. No, penso che stia passando in questa zona, partito a Chiaramonti, sei giù a Martis, non so. Dove stai andando, Rosso? Stai venendo a Sassari? Rosso, ho detto se stai venendo a Sassari. E lo sento basso anch'io adesso. Io Banuda, se lo senti basso tu, io zero proprio. Non ho sentito una A o una B di certo. Lea, guarda chi fai qua? Eh? Sta cercando da mangiare, non ne ho da mangiare, vai. Domanda una burroetta, signor Giorno, che faccio? Minchia, cos'è? Domanda una burroetta, era già Filippo, si è fatto attaccare, adesso mi è sdraiato anche lui, è tutta lì correndo, vende. Questo si sta si sporca un bel cazzo, bisogna tenerlo un po' più dentro. Ehi, si è passato di tutto mandelli, per carità, va. Per carità. Lo so. Attento Nicola, dove sei? Chiave chiave, rosso relativo. Ma ci rimane più qui. Ma non rimane più, cazzo, bastarda. Se non vuoi sentirci via un microfono, cazzo. Abbiamo 7 di MB più 5, cazzo. Ma ci ti regalati. Questo cos'è, crack? Bisogna regolare la scheda dentro, è un casino. Devo smontarlo di nuovo. Casino, il giorno che si rompe un casino, non c'è un microfono normale, c'ero, sì, devo fare le connessioni, dopo qua un microfono normale, quelli semplici per questa radio qua, perché il suo mi si era rotto. Ho 299 dentro la scatola, cazzo, se non fa vedi, non sapevo niente che avevi il microfono in avaria, se non ti avrei dato un nuovo dentro la scatola, ti avresti cambiato la capsula. Capito, avresti usato quello nuovo, proprio nuovo. Ho usato due o tre volte, ho messo dentro la scatola poi assieme alla Radio Vintage, ho dato anche i microfoni a Gianni. Questa qua è la scheda famosa sua, se ti ricordi, quella vecchia, là. Questa vecchia, comunque già esce sempre bene, no? Sì. Alla grande. E allora, ma caro è più questa cosa, intanto c'è utile ogni tanto, poi non rimane. Le tue balle, no, ma io col tarne più 3 c'ha la levetta basso e già va bene. Ne avevi più 5 una rottura di palle. Senta il labbro un attimino, dai, tanto non so cosa devo fare. Devo mettere uno spessolino in modo tale che lui rimanga alto, perché si è abbassata la scheda, si è andata verso su, capito? Ecco perché non rimane più titti. Aspetta un attimino, cra, così lo bruemo, dai. Sono qua giù. Ci vedremo prima, che mamma mia che stanchezza che c'ho addosso, per carità. Mi sei sempre il 20, ti credo. E poi mi sto alzando un bel presto, no? Cambio il letto, cambio il tutto, lui. Mamma mia. No, la luce funziona. Oh, cazzo, usa non funziona. Che spessore vi mettono dove c'è l'aggancio del lock? No, la scheda, là, aspetta, un attimo. Oh, vai andando, va. Forse sono che stia andando. Se tiene, già va. Un altro glielo metto più alta, aspetta. Se no non rimane, ho messo un altro spessorino. Aspetta, vedi, va. Vabbè, sono con due candy, va. Ma lo usare questa non funzionava più. Allora non aggancia. Sta andando qui. Come è andato qua? Aspetta, non lo sto toccando. Prova. E se invece andava così, cazzo, ti metto di palla. Lasciamo andare. Vediamo un po'. Mettiamo a posto, vediamo. Vabbè, ma blocca, se blocca va bene. No, allora non è la funzione. E al colpo esce. Ora. Così troppo alto è il microfono. Oh, per carità. Vabbè, così, troppo alto il microfono. Allora, va bene. Già va bene, già va bene. Sembrava troppo alto. Ora, ora, ora. Adesso come mi ammascio. Troppo alto. No, va benissimo, non è alto, va bene. Ma è rosso che fine ha fatto? Attento, Nicola. Sarà diventato un viaggio. Sono a fare della dremma. E intanto non lo ascolto l'internazionale. No, io non c'ho più niente. Non c'ho manco una radio, né V né U. C'ho due portatili, ma sono dentro la cassetta ancora. Non ho tolto niente. Scende la radio, gioco. Ho messo questa giusto per farmi compagnia, per ascoltare ogni tanto, così fare due chiacchiere, ma ero giù a più di 10 giorni che non c'entravo, non c'ho tempo, Lu, non c'ho tempo di niente. Ma dove sei giù adesso? No, no, giù. Ah, sei giù, cazzo, devi forte lo stesso. Io che arrivo forte, mica alto mio, lo sono io, non è basso. Che te ne hai messo? Un'altra faccia, quella che abbiamo tolto da Gianni, l'ho riparata. Ah, adesso quella. Va bene, va bene. E ho fatto le boccole al radiale, ho messo il radiale nuovo in fibra e la spirale nuova, con tutta la raccorderia nuova, però è bassa, devo sistemarla, no? Adesso non sto pensando all'antenna, poi piano piano, una volta che ho sistemato tutto, allora mi dedico a quelle cose lì, capito? Per forza, cosa vuoi fare? Aspetta. Ma c'ho 10 metri di cavo, neanche. Un mistero, aspetta un attimino, va. Ma ce l'hai ancora aperto? Ma infatti mi... Oh, va funzionando, Nido. Oh, va funzionando, sembra che tocca. Sti piedi tocca? Scusa, aspetta un attimo. No, toccare non tocca perché sono i piedi. Cazzo adesso. Aspetta. Io che non funziona. Meglio comprendere. Insomma non blocca, dai. Ma non perdi di bibilistica. Forse la blocca, cioè, vedete. Ecco, aspetta un attimino, vediamo. Se dovrebbe funzionare, prendiamo solo un pezzolino. No, la mano è stata schiacciata. Giramente di sbaglio. Esce a guida. Se rimane, vediamo. Aspetta. Va, funziona. A blocca adesso. Dovrebbe. E allora se blocca già va bene. Dai, Lugarie, ci aggiorniamo dopo. Che mi sposto un attimo, dai, che Anna sicuramente a spostare qualcosa. Ci aggiorniamo dopo, comunque lascio accesa la radio, dai. Ok. Va bene, cla. Sì, adesso sembra che sia a posto adesso. A dopo. Hola. No, già sta funzionando, la radio è buona, non c'è problema. Dai. Già ci aggiorniamo dopo. Magari se entra Franco o Gianni. Avrebbe qualche controllo, dai. Già sono qua comunque, la radio è accesa. Cappa, va bene, a dopo. Già che lo lascio accesa, dai. Metto lo squelch. Io mi sono svegliato. Ah, non mi lo disegna. E allora? Un po' di sonno c'avevo. E questo già che il microfono è lo stesso. Guarda, tutto il giorno, già. Poi per la macchina che ha, vabbè, il diabete comunque te lo fa. Ma lì mi sa che è esagerata. È super esagerata, sai, è sempre addormentata ed è pericoloso. E non so cosa fa. Non so cosa dire cosa fa. Cosa lo fa, ammazzo. Allora, questa cosa è importante. Sei uscito già? Sonno. Io no, per quello, però c'ho l'abitudine che dopo pranzo il sonnellino me lo faccio. Se è sempre fatto da quando ero ragazzino. Lo facevo, mamma ci mancava a me, diceva non dovete sonnare a vostro padre che deve riposare, che stanco dal lavoro. Se vuoi a letto, un momento. No, non stai uscendo, se riesci non riesci. infatti lo stavo dicendo io. Parte, poi si abbassa la modulazione, poi si alza, poi si abbassa. Guarda, adesso siamo alta. Già. Eia. Ho detto, si abbassa e si alza la modulazione. Aspetta. Perché stavo, forse non ho cliccato bene il microfono, là. Usa il lock, cazzo, sempre si conclicca il dito, io uso il lock. Io adesso lo sto usando, là. Vediamo un po' se va bene. Perché quando c'è un lontano braccio, capito? Per non stare... una volta che tu allunghi il braccio, magari non lo clicco bene. No, non lo clicchi bene per niente, usa il lock. C'è il lock, la comodità, io uso il lock. Adesso sta andando bene il microfono, che cos'era? Nulla, era la regolazione che dovevo fare perché l'ho messo sotto il turchio, capito? Era sotto il turchio stamattina. Cosa vuol dire sotto il turchio? Lo stavo lavorando, dai. Elaborando? No, capito, non già, elaborando ha detto. L'ho spruzzato, l'ho verniciato. Ah, è verniciato il 3x3? Sì. Ah? Sì, l'ho verniciato dello stesso colore. Oh, mamma mia, ragazzi, già, questo vernice, ragazzi, boh. Ma perde la sua cosa, ragazzi. Io lo stesso, il Galaxy non l'ho toccato, c'ho la vernice originale, il mio. C'aveva un graffiettino proprio fine sotto nel fianco, non l'ho toccato. No, questa tana più tre è la vernice originale, questa è proprio originale, non è mai stato verniciato. Spero che non abbia verniciato la parte cromata. Una cosa, non avevamo imbigliato, io l'ho verniciato bene, non si vede nemmeno che è stato verniciato, adesso te lo va. Ma l'hai smontato? Le scritte le hai coperte? Ehi, ha fatto bene, sembra che usciva la faccia. Beh, sono contento, l'hai fatto bene, ma ti ho pitto. La vernice originale è la vernice originale, se non era necessario dovevi lasciare così. Io questo è originale, proprio dalla casa, ma è stato toccato, non c'è un graffio nuovo, te l'avevo mandato. E così il Galaxy lo stesso, io non l'ho verniciato. Lo so, pulito e basta, ma niente verniciatura, perché poi magari cambia la tonalità, si vede, un casino. Vabbè. Mandamelo, dai. Ti lascio con Luca o già, che mi gioco drumenti, beh, giù idee. Devo mettermi a fare qualcosa perché se rimango in radio sono morto. Mi sta venendo il sonno anche a me, sono a pezzi. No, ma tranquillo che è uguale identica come la tira, era un po' sbiadita, non era graffiata, era un po' sbiadita la vernice, l'ho pitturato per te. Vabbè, l'importante sia venuto bene. Lugaria, riprendi tu, io vi lascio, mi allontano, lascio acceso, però mi devo mettere a fare qualcosa, se no mi gioco Garamayende, dai, a più tardi se coincide, se no le prossime, ciao. Ciao. Sei a la dopo, ciao. Manda la foto già. L'ho visto già, ma nero è, nero opaco. È il colore che c'era prima. Ah? È il colore che aveva prima, uguale identica. Ma quello lo stai usando adesso? Eia. A te c'è bene, Eia. Ti è piaciuto come l'ho fatto? Io mannaggio di... già lo sai che io vernicio bene, no, non è un problema. Ho fatto tutto, le scritte, tutto quanto, fatto come si deve. Va bene. Sono incoglionito oggi, mamma mia, da un posto, stasera c'è la pizza. Pizza? Mi sa di sì, Aspetta che Claudio l'ha visto, forse, a vedere cosa mi dice. Io me l'ho fatto perfetto, non è cazzo, già lo sai che io il pronuncio come si deve. Poi se non posso chiudere ancora meglio. Purtroppo è il terrazzo in casa mia che l'ho pronunciato. Io di solito non facevo le cose sempre fuori, per esempio la canna della moto, un giorno è capitato che sembrava bella la giornata, trasmontata, navigata, pronta a verniciare, e vabbè, anche il coso di polvere purtroppo si è attaccato, qualche granello di polvere, non mi sa ne frega, comunque è uscita bene, fatta io, ma alcuna goccia, niente. Ciao ragazzi, andate. Sì, quando sei fuori la polvere, il vento non esiste. Infatti vuoi fare un posto chiuso? In un posto chiuso? A voi te? Cosa c'è? No, cosa vuoi? cosa vuoi la bambina di babbo? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi la bambina? Mi senti già. Cosa vuoi la bambina? Cosa vuoi? No, cosa vuoi? No? Aia, cosa vuoi? Devo tribare, no? Cosa vuoi? No! E allora sono qua. Pensate se funziona il lock, mi senti? Mi senti? Pronto, mi senti? Sì, adesso c'è il lock anche io, però io ce l'ho con, invece che averlo col tasto, il lock ce l'ho con la levetta. Capito? Ehi, ehi, allora va bene, va bene. Virus. Ha detto che ci va male questo microfono. Buh. Come fanno a dire che esce male? Mi sono ascoltato una volta. Ah, ti ascolto bene, dai. Franco non usciva bene, c'era da te. Cosa? Ho detto, se Franco era da te non usciva bene. No, non me l'ha dato. Cosa già? Avanti! Chi è? Chi è che chiama? Avanti! Già, tu sei malato a mangiare 140 grammi? Sì, a carboazzi. Si mangia bene. E la pasta soprattutto ti deve fare un bel. La pasta, io ho mangiato pasta allo scoglio, calamari, patatine, roba così. Si mangia bene, sì. Si mangia bene e non paghi poi tanto tanto, dai. Diciamo che è il prezzo giusto. Ho capito, ci faccio un salto, mi sa, venerdì con Marina. Ma questi non li senti tu già, questi che stanno parlando sotto? Sì che li sento, li ho anche chiamati, hanno detto Giovanni, li ho chiamati ma non mi hanno risposto. Giovanni da Alfieri forse non ti sente, arrivano un bel forte qua. Cazzo, quando ho tratto questa antenna, dove si può andare la giamba Alfieri? No, Alfieri sono arrivato, l'altro giorno ci ho parlato con un camionista. No, questo è Lima 1 di Alfieri, non è camionista. E l'altro è Giovanni, è fratello di quello che è morto, non c'è più, di Nino 1. No, io non li conosco Alfieri, ma lascio. Io parlo mica con portatore, se con Sassari, qualche volta con qualcuno che c'ha il ghello, ma proprio di Alfieri, edifici miei, Capri 2, la zona di Capri 2, quella lì. No, arrivano, io parlo sempre io con loro, ma arrivano anche adesso, già arrivano lo stesso, antenne bassa a bassa. Molta differenza c'è di segnale da prima adesso? No, sei 9.30 sempre. Sì, c'ho antenna a 2 metri, intera l'antenna. Io come ti arrivo? Sì, più o meno come Sassari, forse qualcosa in più, però poi i segnali ve li do una volta che ho messo l'antenna dove deve andare, capito? Adesso è in terra. Come in terra? Come ti ribussa? Te lo dico già, ma te la giubussa. Gli ho fatto un secchio di quelli a 25 kg di tinta a vuoto, ho fatto un po' di impasto, un po' duro, al centro ci ho messo un tubo, lasciato seccare bene e poi ci ho innestato l'altro di un paio di metri. Come aveva fatto coso? Io no. Sì, piantone ho fatto dai, per tenerla ferma e poi ci sono due tiranti, uno a parte e uno all'altra per non farla cadere, no? Legate una parte all'altra, ma è 2 metri. Va bene, vuol dire che la zona è buona. Se stai arrivando così bene perché è buona la zona. Io la qua solo e qua rimango. Se c'è Carlo Gribbo rimango in auto. Già, ma io ce l'avevo, quello di cosa facevo. Già da 3 anni a questa parte ma dovevo andare, però dovevo prima vendere, se no cosa facevo? Volevamo affittarla, ma poi te la distruggono, abbiamo deciso di venderla. Finalmente ho venduto e adesso mi trasferisco definitivamente. Sto un bel bene qua. Alta, zona alta. Vedo cazzo sardo già, la Sassarina, non vedo cazzo sardo. C'ho signori davanti. La gente quando entra Franco e domanda un controllo, vediamo tu arrivi. L'altro giorno l'ho sentito arrivava, quindi a Sassari arrivavano 8:30, 9. L'ho sentito parlando con Giulio l'altro giorno di mattina arrivava 9:10. Signore, se ti arrivi qua. Oi fra, tu sei 9:05, però c'ho l'antenna bassa. Capito, ho sentito, stavo ascoltando. No, io arrivo, la radio è sempre buona. Ciao Gianni. Ciao Franco, buonasera. Bene, a me mi arriva più o meno lo stesso segnale di prima, più o meno, 9.30 come ti prima. Ma la tela è bassa, la ricezione è buona, ma la trasmissione è bassa. Poi fra, tieni conto, io sto usando un baracchino, sto usando il Galaxy con 8 watt, capito? Non so se ero più organizzato, qua c'ho il baracchino con 8 watt e basta. E la tela diventa un botto di bittura. Se la zona è buona, io arrivi Roma a te. No, io va bene. Poi se è così bassa, se ce l'hai a 2 metri, quando ci metti il palo come si deve, vedrai che già aumenta. Sì, ma raga, aumenta. Ma sì, mi sta arrivando bene. Santiago 6. Non so se più o meno era così, 5-6, una cosa del genere. E non la giurano, fra. Non la giurano, c'ho tutto dentro le scatole. Domani dopo la dovrebbe arrivare anche il 430, speriamo che mi telefono il corriere, perché se non sono a Sassari se lo riportano indietro tocca andare a prendermelo io, una rottura di balle. Però gioco ancora in alto mare, fra, ne avrò almeno tutto questo mese, buono, se no anche l'altro, non lo so. Chi non lavora, cosa ci vuole? Cosa c'è da portare? Da portare? E a portare già c'è un bel c'è da smontare tutti i mobili a Sassari, c'è da smontare tutti i mobili. Considera che la cucina l'ho comprata nuova, i due armadi di camera da letto li ho comprati nuovi, perché quelli che ho io a Sassari sono in casa, li lascio al proprietario. Tutto l'arredamento del bagno l'ho comprato nuovo, i materassi sono nuovi. Cosa c'è? Vabbè, il salotto era nuovo perché l'ho comprato 5 anni fa. E un sacco di cosa c'è nuovo. Quindi la metà della roba la stai lasciando a lui? No, metà della roba sì. No, diciamo metà della roba no. Comunque qualche... due armadi di camera da letto, ho voluto lasciarle. La cucina, che c'ha già qualche anno, un po' di anni, quindi no, ho detto di lasciargliela. E poi l'allenamento del bagno, poi due basi che ho e un bel roba le sto lasciando. L'ha voluta lui, ha detto che è nuova, che è buona, così non spende altri soldi. È la figlia di uno che abita sopra di me, capito? C'ha l'età di mia figlia, già ha fatto un sacrificio per comprarsela e quindi mi ha detto ne approfitto, e quello che mi puoi lasciare lasciami, così non spendo soldi. Boia! Bassa, insomma è bassa, è 5 perfetta, amplificata, bella, sì, un po' più basso di segnale, ma non tanto. Prima mi arrivavi 9,5, quasi 9 più 10, hai aumentato di quasi 10 punti a Sassari. Vabbè, siamo di fronte uno di fronte all'altro, poi vedrai anche il mio segnale come sale. No, va bene, fra, ottimo. Lascia perdere, radio 5 perfetta, buonissima, ti ripeto il segnale è un pochino più basso ma non più di tanto, però la radio è bella, non so se Gianni conferma, io ti ascolto benissimo. No, vai bene, dai, non sei basso, va benissimo. E mi sa che chi s'antenna non riceve bene quella vettore, intanto anche il segnale è molto basso, io ti ricevevo abbastanza forte, l'altro giorno ti ha dato il segnale basso. Ma... sul canale 23? No, lascia perdere. 9.10 quasi arrivi. 9.10, anche l'altro giorno ti stavo ascoltando sul 23, quasi 9 più 10, radio 5. Poi c'è dei picchi di modulazione allucinanti. Vai da 9 a 9.10 fra. Va bene, 5 watt stai usando, 4-5 watt. Va benissimo fra. E a volte magari qualcuno dà dei controlli così perché ha problemi magari con l'antenna, con il ricevitore, però qua sei perfetto. Eia, ritorna al capo, ritorna. Ma non mi sono accorto, c'avevo la potenza bassa. C'avevo la potenza bassa, il power neanche a metà era. Adesso l'ho messo al massimo. Aumentato e fra il segnale? Stava entrando nell'altra radio, non l'avevo sentito. Sì, 7, modulati 8, quasi 9. Già va bene, già. Se vuole il power tutto a zero. Non ho capito perché, vabbè, adesso ho messo al massimo. Va bene, va bene. Oh, io, bracco, bracco. Mamma mia, un altro male gioco. Capito, hai già. Non è problema di mobile, è a svuotare, ti ho detto, tutto quello che c'era dentro. Ma cosa vera. E poi c'è la mansarda ancora da svuotare. E portare via tutti i tubi e tutte le antenne che ci sono dentro. Oia. Metti il lock da giudizio. Che stava a tenere il sacco qui su PTT? Usa il lock. Avete parlato in due, cosa hai detto già? Ho detto andiamo bene, andiamo. Che? Andiamo bene, andiamo. E cosa avete di chi? Così è. E vabbè, poi quando devo terminare alla fine poi faccio un fischio. Franco, Luca, e già c'è di gente. A fare un viaggio unico. Ascolta, come sta facendo questi viaggi col carro? No, c'ho un furgone. Furgone dell'azienda, della ditta del mio cognato. Ah, vabbè, allora già ti costa di meno, va? Beh, la parte piccola, scatole, scatolette, tutto vestiario, tutta quella roba, i mobili, già viene un'azienda specializzata a smontarle e montarle, a parte il fatto che quelli nuovi li devono montare dove li ho comprati, mica li piazzo io, no? Mi domani c'è il falegname, deve fare il piano cottura. C'è anche da fare roba lì, da una casa nuova. Era una cusina, ma devi piazzare, finito di placcare l'altro giorno. Vabbè, piano piano si va di tutto. Tu hai il radio, mi scende il radio gioco già. Mi scende il radio gioco. E poi cosa hai baciato il gonto, ma già di canto. Ui, ui, ui. Vabbè, dai, sempre stare meglio. Devo crederci. 1400 euro all'anno solo di condominio mi rimangono in tasca già. Cazzo, io le pago 1200 io. Vabbè, se ci sono anche spese straordinarie arrivi sempre a 81. Spese straordinarie già, mamma mia, io le spese straordinarie non li conto durante l'anno, io sto dicendo solo la mia quota condominiale, sono 120 euro al mese, capito? Se poi contiamo tutte le quote che ho dato straordinarie in un anno, allora arrivi a 2000 euro, lascia perdere. No, basta, mi sono stufato. Mi sono stufato, ce l'ho e quindi va bene così. Ce l'ho e me la voglio sfruttare al massimo. Manco. Mi rimane in busciacca e dirà, vero o fra? Aspetta, così tanto si paga questo condominio? A tu casa noi andrai e devi pagare, è peggio dell'affitto. Fra tutti i condomini, anche se c'è casa tua l'appartamento. Io c'ho l'appartamento, il posto auto, tutta la parte del giardino, tutte le manutenzioni, tutte le cose va pagato al condominio, se no il gasolio, la caldaia, le manutenzioni, cosa fai? No, mi hanno deliberato, ma come Maria io ho venduto io a pagare la nuova proprietaria, già glielo ho detto, poi siamo visti ieri, hanno deliberato a fare i piani piloti, già tu già lo sai cosa sono, no? Sotto le capottine i piani piloti, altri 500 euro a testa. Lo so, anche il capotto, altro coso, perché adesso c'è il 120% stanno dando, quindi tutti stanno facendo questi lavori, ma da premettere che ti controllano dentro la casa, se ci sono abusi edilizi ti fanno la fotografia e la mandano.